Silenzio! Sustancia e ben injusta, impulsiamo la maggioria che vive le tensioni immediata! Dinero che crea falsas ilusiones, dinero che corrompe, mira!